Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Come entrammo, la donnona strinse Francesco in un abbraccio quasi soffocante e sorprendente, che lui non riuscì a rifiutare come era solito fare. All'inizio fu sorpreso, ma successivamente incominciò ad esternare tutte le caratteristiche che ci avevano portato lì. Caratteristiche che un padre non vorrebbe mai vedere nei suoi figli. Sono Gregorio Manfredi, ho 43 anni, sono sposato con 2 figli, faccio l'informatore medico-scientifico e sono di Catanzaro. Non esiste sessismo in questa radio, non esiste sessismo in questo programma. La puntata di oggi però, grazie alla storia di Gregorio, alla storia di un padre e del proprio figlio, è dedicata ai padri, anzi è dedicata a quelli che stanno per diventare padre. Se vostra moglie o la vostra compagna ve l'ha detto ieri sera, se ve l'ha detto un mese fa, se ve l'ha detto un sacco di tempo fa che manco ve lo ricordate più e quindi mancano pochi giorni, poche settimane, o come diceva il mio amico Peppo, è questione di ore. 800240024, questa puntata è solo per voi. Apriamo il telefono, solo per voi, sto esagerando, non è solo per voi, però diciamo che ci piacerebbe che chiamaste voi. 800240024, per sapere da quelli che la stanno vivendo questa attesa, da quelli che magari la vivono per la prima volta, o da quelli che invece la conoscono, però sono sempre 9 mesi in cui non sai mai cosa succederà. Oggi, nel 2013, le speranze e le paure di un padre che sta per diventare padre. 800240024. Se volete invece raccontarci qualcos'altro, se siete madri o padri che ce l'hanno già avuto il figlio, se siete madri in attesa, 349-238-6666. Continuiamo comunque anche attraverso gli sms a parlare di questa cosa qua, a parlare di figli, ma vista dalla vostra parte ovviamente, quindi dalla parte dei genitori. Se avete dei figli grandi o piccoli che siano, se ci sono delle paure più grandi di altre che avete, o se avete delle speranze maggiori rispetto ad altre, oggi la puntata è per voi. Gli sms sono al 349-238-6666. Al telefono però solo padri in come si dice, in fieri, gente che sta, no, padri in fieri non vuol dire niente, padri in procinto di esserlo. Siete lì in quei 9 mesi e la protagonista ovviamente è la vostra compagna, perché è a lei che cresce la pancia, è a lei che si fanno le visite, fa gli esami del sangue e l'attenzione alle sue voglie. Poi sta roba delle voglie, non so, ma non ho mai capito se è vera. Filippo, tu che lo sai, è vero, le donne hanno le voglie, vogliono mangiare la roba, benissimo, quindi l'attenzione è su di lei. Oggi però parliamo di voi e con voi, tutte le vostre paure, le vostre speranze, che cosa vi aspettate da sta roba, quando uscirà questo bambino e quando lo guarderete in faccia. 800240024. Vi leggo un messaggio che è arrivato sul profilo Facebook di questo programma, che è Voi siete qui Radio 24, di Francesco, che parla dei due gemelli. Dice così: i miei gemelli hanno ormai 14 anni, sconvolti da una tempesta ormonale sentimentale. Li invito a una serata al cinema. L'ultima volta, seduto tra loro, mi sentivo al centro del mondo. Questa volta invece incontrano amici e io sono seduto a chiudere la fila e sento di non essere più al centro del loro mondo. Rimani con la paura di perderli in questo mondo, fatto il record del mondo di dire mondo, Francesco, in questo messaggio, in questo mondo che non è fatto a misura di adolescente. Rimani con la paura di chiudere una fila troppo lunga per poter arrivare prima ad abbracciarli quando piangeranno per un amore o per un lavoro perso. E in chiusura dice: ho anche una piccola di 5 anni, Eliana, e ho paura che alla sua di adolescenza il mio cuore non reggerà. 349-238-6666, altrimenti se state per diventare padri, se ve l'hanno annunciato da poco o se comunque, come direbbe Peppo, è questione di ore, 800240024. Questa è la storia di Gregorio e di suo figlio. L'appuntamento è fissato da ormai 2 mesi. Il giorno è arrivato, 22 marzo 2006, sono le 14:50. Siamo, diciamo così, in leggero anticipo, visto che ci avevano detto di arrivare alle 15:30, ma l'ansia in cui eravamo caduti, io e mia moglie, da ormai un po' di mesi, ci faceva perdere la nozione del tempo. Per fare 10 minuti di strada eravamo partiti con quasi un'ora di anticipo. Appuntamento al centro di neuropsichiatria infantile con la logopedista. Francesco, il mio bambino, ha solo 3 anni, ma è, come al solito, molto silenzioso. E sono proprio i suoi silenzi i suoi comportamenti al limite dell'autismo, come replicare in maniera ossessiva determinati giochi, a portarci in questo posto accogliente e caldo. Accogliente e caldo per qualunque bambino, ma dentro di noi c'è un freddo che nessuna coperta può riscaldare. L'attesa è segnata dai pensieri più brutti. La diagnosi di pochi mesi prima parlava di un bambino di 3 anni definito dissociato, che aveva necessità di una terapia cognitivo-comportamentale. Ci siamo accorti che Francesco aveva qualche difficoltà perché da piccolino aveva difficoltà a relazionarsi con gli altri bambini. Aveva la tendenza a rimanere sempre da solo e parlava pochissimo. I pianti a quella diagnosi così vaga, che voleva dire tutto e niente, erano stati tanti e dolorosi. Quello che si capiva chiaramente era che dentro di lui qualcosa si era rotto. Entrammo in una stanza accolti da una donnona, alta e robusta, con uno sguardo dolce, che solo chi ha la paura del suo aspetto non può percepire. Prima di allora non avevo mai visto e non sapevamo, io e mia moglie, che cosa fosse una terapia cognitivo-comportamentale. Appena entrammo, la donnona strinse Francesco in un abbraccio quasi soffocante, sorprendente, che lui non riuscì a rifiutare come era solito fare. All'inizio fu sorpreso, ma successivamente incominciò ad esternare tutte le caratteristiche che ci avevano portato lì. Poche parole, gesti quasi ripetitivi, rifiuto totale dello sguardo degli altri e un velo di tristezza nei suoi occhi che un padre non vorrebbe mai vedere nei suoi figli. I giorni di terapia erano sempre più frequenti e i miglioramenti lenti, come una lumaca, per un padre che vorrebbe farsi raccontare da suo figlio ogni cosa. Faccio molto di più il papà e meno l'insegnante, e meno il genitore. Nel senso, mi diverto assai a stare con lui. Quel poco che so con lui cerco di divertirmi e basta, senza fare chissà che cosa, i compiti o altre cose. Penso solo al divertimento quando sto con lui. Oggi, dopo molti anni, Francesco è un bambino meraviglioso, sorridente, con i suoi problemi di comunicazione sempre presenti, ma con un talento che solo i bambini dislessici possono esternare attraverso la pittura e le sue costruzioni di Lego. Ogni giorno chiedo scusa a Francesco. I suoi problemi sono stati per me un banco di prova che solo ora riesco a superare con un sorriso. Ma troppe volte l'ho trattato come un padre idiota che si sentiva deluso dal suo comportamento. Manco avesse 30 anni. Life is here, no 11th hour reprieve, so don't forget to breathe. Keep your head above water, but don't forget to breathe. Emilio Salgari, il grande scrittore veronese, l'inventore di Sandokan, delle Tigri di Mompracem, del Corsaro Nero, scrisse per tutta la vita storie ambientate in terre lontanissime, eppure non si allontanò mai dalla sua scrivania. Il suo viaggio quotidiano era quello di raggiungere la biblioteca a poche centinaia di metri da casa sua, dove poteva consultare le mappe di quelle terre esotiche. Ecco, io oggi cercherò di fare un po' il Salgari della paternità, dal momento che non ho nessun figlio su cui fondare la mia esperienza a riguardo. Quindi quella di oggi è una puntata ipotetica, la puntata del se avessi un figlio, una puntata di domande. È un grande punto di domanda che voglio porre a tutti i genitori che stanno ascoltando. Perché se avessi un figlio, le prime domande che mi porrei sarebbero domande tipo: l'amore per lui è sempre immediato? È sempre scontato? Si riesce ad amarlo sin da subito? È un amore che ha bisogno di cure, quell'amore lì, di dettagli, di regali, oppure cresce gratis? Io ricordo che quando è nato Olmo, il figlio del mio amico Mauro, era il primo figlio degli amici più stretti. E dopo qualche mese passata la sbornia della felicità, Mauro mi dice con una convinzione che non gli ho mai visto prima, che sono più le cose che i grandi imparano dai bambini che non il contrario. E dalla storia di Gregorio intuisco qualcosa del genere. Se avessi un figlio, forse capirei davvero che cosa ci sia da imparare a parte cambiare pannolini e non dormire la notte. Se avessi un figlio, mi sentirei in colpa tutte le volte che pensassi che palle. Avrei il terrore di deluderlo una volta cresciuto e avrei il terrore di annoiarlo soprattutto. Però questo prima o poi succederà. Invece è l'inversione delle parti che mi preoccupa molto. Cioè, io potrei essere deluso da lui. Può capitare di sentirsi delusi dal proprio figlio. Può capitare di vergognarsi del proprio figlio. Può capitare che un figlio tanto più sia voluto e cercato e tanto più venga mal sopportato nel momento in cui c'è. Può capitare di annoiarcisi in sua presenza. Gregorio non parla esattamente di questo. Lui ci ha raccontato come ha dovuto elaborare qualcosa di molto più difficile da accettare per un padre. Sono domande però che riguardano tutti i padri. Manco avesse 30 anni, dice Gregorio. Se avessi un figlio io farei sicuramente quell'errore lì. Sono sicuro che farei come se avesse 30 anni. Oggi Olmo, appunto il figlio di Mauro, ha 6 anni e da 3 anni ha anche una sorellina, Ada. Quando Ada aveva poco più di un anno è stata in pericolo di vita per qualche giorno e in quei giorni Mauro mi ha confessato di sentirsi in colpa per non averla amata abbastanza. Dopo che si superano le situazioni più difficili spesso riusciamo a vedere le cose con maggiore chiarezza. Oggi Ada sta bene e Mauro oggi, dopo quella brutta avventura, mi dice che l'amore per loro è diventato un amore perfetto. Dice che è sempre di più, un giorno dopo l'altro, sempre più forte. Cambierà, come tutto cambia, ma non si può consumare in nessun modo. È un amore che supererà qualsiasi tradimento, qualsiasi colpo basso. Non c'è delusione che lo comprometterà. È un amore che cresce anche quando ci si annoia, anche nella malsopportazione. E non diventerà mai abitudine. Il prezzo da pagare, lui dice, sono capelli bianchi, occhiaie perenni e molto meno tempo a disposizione, ma tutto questo non conta niente in confronto. Io appunto non sono padre, però ho vissuto un pezzo di questa cosa proprio con suo figlio. Un fine settimana avevo deciso di insegnare a Olmo ad andare in bicicletta senza le rotelle. Lui era veramente piccolo per imparare, ma per quell'amore che almeno i piccolissimi ricambiano sempre, si è lasciato convincere e c'è stato. Quindi di fronte al suo entusiasmo io ovviamente mi sono ingarellato e quindi dovevo farcela ad insegnargli ad andare in bicicletta. Anche lui, esattamente come noi grandi, ci metteva tutto l'impegno che un bambino di 3 anni e mezzo può metterci in un'impresa del genere. Tanto più cadeva, tanto più risaliva in sella. Ho passato un pomeriggio con la schiena curva, con le mani attaccate al sellino a sudare e arrabbiarmi con lui quando perdeva l'equilibrio. Manco avesse 30 anni. Ma nel momento in cui ha pedalato da solo, cioè nel momento in cui ha capito come gestire l'equilibrio sulle due ruote e si è staccato senza paura, nel momento in cui è tornato verso di me urlando di gioia con gli occhi sgranati dalla contentezza, ho vissuto una delle gioie più intense che abbia mai vissuto. Oh, sweet thing, Zion doesn't love you. Delle volte facciamo le cose a caso, delle volte invece no. Questo pezzo è un pezzo dei Vampire Weekend che esce domani e ve lo mandiamo in anticipo qui, ovviamente sempre grazie a Tiziano Bonini. Non c'è un padre in questo studio, no, c'è Filippo Aureggi che è padre dall'altra parte del vetro. La puntata di oggi però è dedicata a tutti quelli che padre lo stanno per diventare. 800240024, ovunque vi troviate, sulla vostra auto, se siete a casa, se ve l'ha appena detto con un sms, vi auguro sinceramente di no, se ve l'ha raccontato qualche mese fa, perché è sempre così, no? In un modo o nell'altro è lei che lo racconta a voi, vorrei sentire dalla vostra voce esattamente che cosa state passando, come l'avete vissuta, che cosa state facendo nell'attesa, se state facendo dei corsi ad esempio, adesso no, va di moda a fare dei corsi. Filippo, tu hai fatto dei corsi per capire... Filippo alza un sopracciglio e scuote la testa come a dire sì, l'ho fatto. 800240024, paure e speranze di quelli che stanno per diventare padre. Arrivano messaggi come, eccolo qua, tra qualche ora sarò babbo di nuovo per la terza, come tra qualche ora, sei in ospedale allora o fai come Peppo, è questione di ore. Tra qualche ora sarò babbo di nuovo per la terza volta in 4 anni. Che bello, meno male che è femmina e non un teppista come il secondo, anche se lo amo tantissimo, lo aggiunge, perché altrimenti sono anni di psicoterapia per il figlio che potrebbe andare a ribeccarsi il podcast e dire: perché mio padre una volta disse, fortuna che la seconda o la terza è femmina. 800240024, state per diventare padri, che cosa state provando? Ce l'ha raccontato perfettamente Gregorio, che cosa non stava provando, che cosa ha provato e cosa sta provando adesso dopo che Francesco è nato e dopo che hanno affrontato questo percorso che immagino stia continuando, però lo faccio raccontare direttamente da lui. Pronto Gregorio? Sì, pronto. Ciao, come stai? Bene, grazie Matteo. Dove ti trovi? Io in questo momento sono a Catanzaro. Tra l'altro, possiamo dirlo, questo è il primo puntino rosso di voi, siete qui da Catanzaro, non dalla Calabria, ma da Catanzaro. Catanzaro, no, scusami, quanti abitanti ha Catanzaro? Quanti? Quanti abitanti ha? 120.000 più o meno. 120 hai detto? Sì, 120. Catanzaro famosa per? Per il vento. Per il vento, davvero? Sì, non c'è una giornata senza vento a Catanzaro. C'è un proverbio bellissimo che dice che è così difficile trovare un amico come una giornata senza vento a Catanzaro. Ma è un proverbio calabrese? Sì, è un proverbio di questa città. Sì. Io pensavo più che altro ai gol di Massimo Palanca anni fa quando militava nel Catanzaro. Quella è un'altra storia, Matteo, quella è la Bibbia. Che cosa fai nella vita, Gregorio? Io sono un informatore medico-scientifico. Informatore, quindi vai dai medici negli ambulatori o vai in ospedali? Sì, che sì, tipo di... No, vado sia negli ospedali che dai medici negli ambulatori. Sì. Ci dici più o meno che tipo di farmaco, senza dirci che cos'è? Insomma, che cosa parli nella tua giornata? Un farmaco per la prostata, per l'IPD, ipertrofia prostatica benigna, e poi un farmaco anche per l'insufficienza venosa. Ok, funziona? Benissimo. Bravo Gregorio. Veniamo a Francesco. Dov'è Francesco adesso? In questo momento Francesco si trova da Antonella, la sua maestra del dopo scuola. Che non è la signora di cui ci parli nel racconto. No. Quella si chiama Riccarda ed è la sua logopedista. Ah, giusto, è vero, ok, questa è l'insegnante. E come sta Francesco adesso? Sta bene, sta molto bene, è un bambino molto vivace, ha sempre in questo momento lui viene definito un ritardo sociale, cioè la difficoltà a relazionarsi con gli altri bambini. Gregorio, fa passi da gigante. Mi spieghi per me, per chiunque non lo sappia o faccia confusione, esattamente che cos'è la dislessia? La dislessia è un disturbo specifico dell'apprendimento, cioè questi bambini hanno la caratteristica di avere difficoltà nel leggere, nella maggior parte dei casi, di scrivere, di sortografia. Ad esempio Francesco non ha la discalculia, cioè la difficoltà a fare calcoli. A fare calcoli, okay. Questo ci riesce facilmente. Però ogni dislessia è diversa dall'altra, Matteo, nel senso che ogni bambino la dimostra in maniera diversa. E quindi questo percorso che lui sta facendo con la logopedista può portare a un netto miglioramento che mi pare esserci già stato, giusto, di fatto? Sì, lui, guarda, ha iniziato la scuola che aveva difficoltà a riconoscere addirittura le lettere, perché tu basta che tu prendi una lettera qualunque, è una lettera tipo la P, sì. Se tu la giri diventa una D, se tu la giri nell'altro verso diventa una P, sì. Una B, scusa, come sì, Bologna, sì, sì. Sì, certo. Se la giri diventa una Q, loro hanno questa difficoltà viso-spaziale, si chiama, a identificare queste problematiche, e quindi fanno una fatica incredibile per poter leggere qualsiasi parola, ecco. Ma tra l'altro, correggimi se sbaglio, ma questo tipo di disturbo se ne è cominciato a parlare molto di recente, perché era una cosa che fino a qualche anno fa non era così nota, no? Non era socialmente accettata, non lo so, dico la prima roba No, è così, tant'è che si pensava che questi bambini fossero molto vagabondi, pigri, non si credeva fosse un lato del carattere sostanzialmente. Sì, benissimo, bravo, sì, okay. Ma infatti è così, loro a un certo punto si vedono in difficoltà e si richiudono. Certo, certo. Una forma di difesa praticamente. Gregorio, io ti devo salutare, però volevo dirti questa cosa per chiudere, che quando ho letto la tua storia, ho fatto qualche ricerca, ho scoperto che tra le varie persone dislessiche, ce ne sono veramente tante, uno tra i più noti è stato ed è Henry Winkler, che è Fonzie. Quindi dico, se una persona dislessica è diventata Fonzie, direi che davvero non c'è problema per nessuno, in sostanza. Sì, si dice Michelangelo, Leonardo da Vinci, Einstein. Sono moltissimi. Non voglio che diventi questo, Francesco, voglio che solo che stia bene, poi per il resto che si faccia la sua vita e si diverti soprattutto. Gregorio, grazie mille, in bocca al lupo a te, Francesco, a tua moglie. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao, grazie. Ancora 800 24 0024, padri che lo state per diventare. Padri. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Gregorio e Francesco nella foto, andate a vederli sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui. Andate a vederli perché sono molto divertenti. Gregorio sta chiaramente facendo la foto con un autoscatto, un po' impacciato, tipo, boh, chissà se ci stiamo inquadrando. Invece Francesco è lì che aspetta, come dire, va bene, facciamo sta foto. Sono all'aperto, ci sono delle palme, mi pare, insomma, dei palmizi, qualcosa di strano, anche se sono dei vasi, quindi è un po' un verde da sud Italia, più che da nord. Cioè, a Milano non ci sarebbero questi vasi alle spalle di chi si fa una fotografia. È completamente pelato Gregorio, ha su degli occhiali e una camicia azzurra. È invece completamente biondo Francesco, ha le labbra rossissime e ha su una giacchina azzurra con un colletto bianco, che non vorrei fosse il grembiulino della scuola. Dislessia, sostantile femminivo. In medicina, disturbo neurologico caratterizzato dalla incapacità di leggere e comprendere un intero scritto pur comprendendo ogni singola parola. Etimo derivato dal greco lexis, discorso, col prefisso dis. Data prima del 1956. E abbiamo anche capito che cos'è la dislessia. Ringraziamo Mario. Mario, abbiamo avuto un problema di accavallamenti, quindi c'è la voce di Mario invece che quella di Alessandra oggi. 349-238-6666, si parla con, piuttosto che di, si parla con i padri che stanno per diventare padri, che magari lo sono già, però che sostanzialmente stanno aspettando che gli nasca un figlio. 800-24-0024, intanto arrivano i messaggi che dicono quello per i figli è un amore assoluto e incondizionato. Per chi invece sta per diventare padre, leggerei soprattutto questo messaggio. Dopo 25 ore di doglie e poi un cesareo d'urgenza, quando me l'hanno fatto vedere, ho capito che cosa significano le parole per sempre. Dopo anni, confermo, è così. Andiamo a Napoli da Rodolfo. Pronto, Rodolfo? Buonasera, ciao. Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, abbastanza teso ed emozionato per il prossimo arrivo. Quanto manca? 12 giugno è la data fissata, diciamo, dai medici, ma credo che la piccola si anticiperà un po', la piccola Arianna. Arianna, ok, già sappiamo che è una piccola e non un piccolo e che si chiama Arianna, ma perché ci sono delle avvisaglie? Ma no, credo che abbia preso, diciamo, assomigli molto alla mamma. La mamma è irrequieta, un tipo veramente... diciamo veloce, si dice a Napoli qui è abbastanza... frequenti avere questi tipi, diciamo, spicci, ecco, questo è il termine che si usa. Ma tra le donne o tra gli uomini? No, un modo di dire, quando una persona è abbastanza veloce, pratica, si dice spicci. Ah, ok, no, credevo fosse una cosa abbastanza comune tra i napoletani essere spicci. Ok, no, perdonami. Quindi dicevi, la mamma è un po' una spiccia e quindi se ne esce prima. Non credo che attenderà il 12 giugno, penso che arriverà prima. Avete... Colgo l'occasione, Matteo, scusami, per farmi perdonare una gravissima mancanza. È stata domenica la festa della mamma e io mi sono dimenticato di farle gli auguri. Ecco. Adesso, grazie a te, mi salvo un calcio d'angolo e faccio degli auguri speciali per radio. Auguri, Valentina, ti amo. E poi per... Ma Valentina chi è? Tua mamma o lei? Mia moglie. Ma non vale, sei suo marito, non è tua mamma, Massimiliano. No, la festa della mamma per te sarà la futura mamma, quindi l'hai rimproverato. Va bene, ammazza, è veramente avanti proprio, cioè già si sente mamma prima ancora di esserlo. Rodolfo, in bocca al lupo per... sei meno di un mese, meglio ancora. In bocca al lupo, grazie, per tutto. Matteo. Ciao, buona grazie. Giornata. Ciao, grazie, ciao. Andiamo da Monza Brianza. Roberto, pronto Roberto? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, sto lavorando, purtroppo non sono a Monza Brianza adesso, sono qui a Campo San Piero in Veneto. Perché sei un autista? Sì, faccio l'autista. Che, esatto. Che cosa guidi? L'autotreno, il camion rimorchio. L'autotreno, la definizione esatta di autotreno è quello con rimorchio, giusto? No, sono tutti con rimorchio, solo che quello lungo, col rimorchio più lungo è il bilico. È il bilico, esatto. Però come lunghezza è più lungo l'autotreno che quello dei pezzi. Quindi quanti metri di camion c'hai dietro le spalle? 18 metri e 75 sarebbe. Mazzia. Regolarmente, però questo mi sa che è qualcosa in più. Però non lo diciamo a nessuno perché... quanto manca, Roberto? Senti, a me dovrebbe nascere Ginevra a fine agosto. Ma tu ne hai già due però, giusto? Io ne ho già due, sì. Andrea, che è la mia femminuccia, che ha 7 anni. E poi c'ho Nicolò, che è il più piccolo, è maschietto, maschiaccio. Ecco, scusa, allora Roberto, ne approfitto, perché uno che ha già due di figli, che paure hai in attesa che arrivi il terzo? Per lui, intendo. Assolutamente. Allora, per lui, ecco, hai fatto una domanda cosa. Senti, guardando il mondo che gira adesso, sarebbe un po' demagogico dire che, insomma, non hai grandi aspettative, però... Breaking news. A Milano il processo Ruby. Un istante fa le richieste, dopo una lunga giornata di requisitoria, del PM Ilda Boccassini per Silvio Berlusconi. L'accusa chiede 6 anni di carcere per Berlusconi per la vicenda Ruby e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Questa è la richiesta di Ilda Boccassini. Torneremo a parlarne in GR24 alle 17. Perpetua vuol dire per sempre. Giusto? Sì. Perpetua. Roberto, bravo che ci sei ancora, volevo sapere, temevo se mi avessi messo giù, quindi insomma chiudiamo, poi ti lascio andare che siamo stati interrotti. Dicevi, insomma, hai qualche timore, ce l'hai, però mi sembri speranzoso in realtà, mi sembri uno tranquillo, Roberto. È uno che si mette a fare 3 figli, credo che abbia che ha fiducia nel futuro. Fiducia, no? Anche perché se ci fermiamo, comunque il resto di timori non ne ho. Uno diventa genitore, quando diventa genitore è un po' come guidare la macchina o come nuotare, impari man mano e man mano che vai. Ed è una grande cosa, come diceva prima quel signore di prima, tu praticamente impari da loro quello che devi fare. Grazie mille. Posso, Roberto. Matteo, ti seguo da sempre anche dall'altra radio, faccio un saluto a mia moglie Mara, Andrea, Nicolò e Ginevra. Ciao. Ciao Roberto, è partita sta cosa oggi, che tutti salutano a casa. Andiamo da Lecco, a Lecco da Massimiliano. Pronto Massimiliano? Pronto. Ciao, ciao Matteo. Come stai? Bene, bene, grazie. Senti, tu ci hai scritto... Finalmente ti sento, ti ascolto da quando lavoravi ancora in altre radio. Riesco a parlarti. C'hai scritto su Twitter, hai scritto che passi le serate a parlare con la pancia di tua moglie. Sì, esattamente. Che cosa dici alla pancia di tua moglie? Ma cerco di trasformarlo in genuano, perché mia moglie è juventina, e quindi c'è questa guerra tra me e lei, se sarà genuano o juventino. E quindi io gli parlo, intanto perché dicono che sente le voci, quindi è giusto che senta anche la mia, no? Okay. Mia moglie la sente per forza di cose. Certo. E la tua invece, te la fai sentire? La lotta tra genuano e juventino, la butti sul calcio. Massimiliano, dimmi, e poi ti saluto, dimmi una paura che hai e una speranza che hai per lui. Paura no, non ho una particolare paura. Quindi la speranza è che faccia il medico, l'avvocato. No, la speranza è che sia felice. Poi okay. Quello che farà lo sceglierà lui. Perfetto. Massimiliano, non ti faccio salutare tua moglie come se l'avessi fatto. Buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. L'ultima telefonata, andiamo ad Ancona da Fabrizio. Pronto Fabrizio? Ciao Matteo. Ciao, guarda, ho solo un minuto. So che però tu stai per diventare un papà un po' diverso. Cioè un po' diverso, nel senso che è un'attesa diversa, perdonami. Sì, perché i miei figli sono già nati da diversi anni e io ho saputo 15 giorni fa che fra 2 mesi li andrò a prendere, naturalmente insieme a mia moglie, diventiamo genitori adottivi. Dove andate? Ti assicuro che andiamo in Costa Rica. Ok, mi assicuri ti assicuro che l'emozione è esattamente, penso che sia esattamente come quella di quando tua moglie ti dice che aspettate un bambino, è una cosa... Solo che avete aspettato molto di più. Noi abbiamo aspettato, l'iter è durato 2 anni, però in realtà adesso la gestazione dura solo 3 mesi, quindi alla fine in 3 mesi dobbiamo fare quello che le coppie fanno che hanno figli naturali fanno almeno in 9 mesi. Insomma. Fabrizio, e poi ti devo salutare, dimmi i nomi dei tuoi figli. Alex e Anna. In bocca al lupo e buon viaggio. Ciao Fabrizio. Grazie. Ciao, grazie mille. Grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina, a Mauro Pescio e grazie a Filippo Aureggi che hanno fatto la puntata di oggi. Grazie soprattutto a Gregorio perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Io sono Gianluca, sono di Lecco e la storia di domani è la mia e parla dell'ultra trail del Lago d'Orta che ho fatto lo scorso ottobre. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui.